Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Non è possibile che scompaia, è la base di almeno 20 frullati. Ti dirò di più, è il frutto più prezioso del mondo. Ma pensa tu, pensa tu. Benvenuti a Mebius e adesso i titoli. Anche l'Economist parla della moria delle banane. Due funghi stanno decimando il frutto più prezioso del mondo. Cosa esce dai poli di un magnete? O meglio, da cosa è formato un campo magnetico? Questa è la domanda di Roberto. Uno sciame di robottini subacquei. Si muovono in maniera coordinata e serviranno per monitorare i nostri mari. Sono più economici ed efficienti di un grande robot singolo. Quanto è vuoto l'universo? Non è vuoto. Questo è il punto. Allora, di che cosa stavo parlando? Si è scomodato persino l'Economist, appunto definendolo il frutto più prezioso del mondo. L'avrete sentito nei titoli, parliamo della grande moria delle banane. È definito il frutto più prezioso del mondo perché c'è un giro economico molto consistente legato appunto alle banane. L'Economist lancia l'allarme per quello che potrebbe essere generato come fenomeno economico se i banani scomparissero. E perché? Perché adesso lo spieghiamo. Quindi andiamo da un esperto, un po' brutto dire un esperto di banana. Vabbè, andiamo da un esperto intanto. Pietro Pifanelli, buonasera. Buonasera. Lei è ricercatore del Parco Tecnologico Padano che ha sede a Lodi, ma per molti anni ha lavorato in Francia al genoma della banana e si è proprio occupato anche di tutti gli aspetti relativi a queste malattie che minacciano il banano. Ma andiamo con ordine. Intanto, cosa possiamo dire della banana? Cioè, è il frutto più prezioso del mondo proprio perché è quello più distribuito, è quello che ha un giro economico maggiore. Indubbiamente a livello mondiale la banana rappresenta il quarto frutto più diffuso commercializzato. Questo perché storicamente è un frutto che ha sempre avuto una piacevolezza sia nel mondo asiatico sia nel mondo industrializzato, soprattutto nel Nord America e Sud America. La qualità più diffusa è una in particolare? Sì, il 95% del mercato oggi è rappresentata dalla Cavendish, conosciuta, che è una specifica varietà che ha caratteristiche di trasportabilità su grandi distanze e, come conosciamo bene, una buona palatabilità. E infatti adesso ci arriviamo, perché diciamo il pregio e ahimè anche il difetto della banana è che non ha i semi, e ora vediamo perché è così, insomma, in qualche modo vulnerabile. Sì, questa Cavendish è effettivamente una specie poliploide, quindi il fatto che sia piacevole è proprio l'assenza di semi, e quindi è una pianta sterile. È una pianta che può essere riprodotta soltanto per talea, nel senso per propagazione da una pianta madre. Cioè si tagliano dei pezzettini, dei rametti, e vengono rimpiantati. Si ripiantano. È poi una specie pluriennale, quindi rimane e rigenera nuove foglie e quindi nuovi frutti in modo annuale, ma sempre dalla stessa radice. Quindi è fragile, diciamo che dal punto di vista dell'ecosistema è fragile, insomma. È molto fragile perché, partendo da un unico madre, abbiamo dei cloni che sono tutti identici. Se questi già alla base sono suscettibili alle malattie, e particolarmente a questo fungo patogeno, eccoci che qua, prende il nome, sì, di Black Sigatoka, tutte avranno la stessa suscettibilità, mentre in natura normalmente delle varianti portano a delle piante resistenti e quindi a potersi difendere da queste malattie. Ed ecco qua il problema, insomma, sarebbero questi funghi, lei l'ha appena detto, la sigatoka nera, e poi ce n'è un altro. E che cosa fanno al cos'è banano? Cos'è che combinano? La sigatoka nera, che è la principale malattia del banano, causa proprio una moria delle piante, nel senso che è un fungo che si nutre delle cellule della pianta. Il suo obiettivo è uccidere la pianta per prendere i nutrienti e potersi riprodurre. Un parassita. Se la mangia tutta, nel senso che quello che si vede è la scomparsa proprio della pianta. Un annerimento progressivo, soprattutto delle foglie, quindi la pianta perde energia e quindi farà una produzione inferiore di banane, mm-hmm. avrà una maturazione più rapida perché la pianta sente di essere in difficoltà e quindi cerca di portare a maturazione i propri frutti, e ovviamente tutta l'infrastruttura della pianta viene indebolita. L'altra malattia, che è la malattia di Panama, quindi trova terreno fertile per potersi instaurare. Quindi che è sempre appunto causata da un fungo. Da un altro fungo, che comunque convive nello stesso ambiente. Quindi oggi questo Cavendish è suscettibile ad entrambe le malattie, e quindi questo causa un grosso problema nel fatto che intere piantagioni devono essere completamente eradicate. Ecco, ma si può fare qualcosa o dobbiamo metterci l'anima in pace? No, poi ci dica anche, ma è in tutto il mondo che sta succedendo questo? In tutti i bananeti del mondo? Dunque, la malattia che è stata identificata negli anni 60 per la prima volta, proprio come l'agente eziologico, si chiama Micosferella figensis, proprio perché era stata identificata nelle isole Figi. Oggi è distribuita interamente nelle principali aree di coltivazione del banano. Questo è dovuto al fatto che il fungo si riproduce tramite delle spore che sono trasportate dal vento, quindi si può trasportare su grandi distanze. Sì. Oltre a questo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, le foglie di banano vengono utilizzate come imballaggio o per altre sostanze. Quindi le foglie infettate possono essere trasportate per lunghe distanze dall'uomo, dalle barche. Sì, fanno il giro del mondo praticamente. E possono fare il giro del mondo. Certo. Il terzo aspetto è legato proprio al fatto che, come abbiamo detto, sono pezzettini della pianta originale che vengono trasportati, quindi il trasporto di materiale infettato da un paese all'altro è facile, molto facile. E nuove piantagioni vengono quindi installate già contaminate. Certo. E che cosa si può fare? Esistono dei fungicidi? Non cosa so. Si può fare? Ci state pensando voi ricercatori? Sì, immagino. Ovviamente da molti anni ci sono attività di ricerca a livello internazionale proprio per cercare di trovare una soluzione a questo problema, perché ha un forte impatto ambientale, in quanto oggi l'unico modo di controllare questa malattia è il trattamento con fungicidi ad ampio spettro, che sono ovviamente molto nocivi e ovviamente hanno dei costi molto elevati. Le soluzioni che sono state intraprese sono a livello di decodifica del codice genetico della banana, che quindi ci ha permesso di capire quelli che sono le mancanze di Cavendish in rapporto ad altre specie che invece contengono questa resistenza. Quindi il gene, diciamo, che in qualche modo il può proteggerle o meno. Il gene della resistenza è stato identificato. La difficoltà è appunto di portarlo all'interno della varietà Cavendish. Perché questa, essendo sterile, d'accordo, non possiamo incrociarla. E quindi dobbiamo fare tutto un lavoro genetico alla base per poter trasferire la resistenza all'interno di Cavendish. Questo è un iter molto lungo, d'accordo? E quindi si teme che non ci sia abbastanza tempo? Esatto, che non ci sia abbastanza tempo per poter risolvere questo problema. Questo problema era già successo precedentemente con un'altra varietà che infatti era stata sostituita dal Cavendish, d'accordo? Quindi il problema è che oggi Cavendish, come sappiamo, è la banana apprezzata, d'accordo, a livello mondiale. Quindi sostituire al consumatore questa tipologia di banane, trovarne un'altra che abbia lo stessa palatabilità, no? Lo stesso aroma, lo stesso gusto che ci dà, è molto difficile. Quindi vediamo se abbiamo capito bene, insomma, l'unica soluzione possibile potrebbe essere quella di creare un organismo geneticamente modificato che all'interno ha, diciamo, questo gene, questa difesa. Questa è sicuramente una via che è già stata intrapresa, di creare delle piante biotech che contengano il gene di resistenza all'interno di Cavendish, e questo sarebbe il modo più rapido di poterle produrre. Reagire. Il metodo invece genetico, d'accordo, prevede degli incroci e tutta una serie di generazioni che devono essere create, quindi è un tempo molto più lungo. Quindi con un approccio, diciamo, di tipo biotech è possibile avere potenzialmente una soluzione in tempi brevi. Questo però pone tutti dei problemi a livello di regolatorio. Certo, sappiamo, etico, no? E quant'altro. Etico, ambientale, e quindi va valutato in base alle normative vigenti. Vuol dire, no, noi dobbiamo prepararci al fatto che, insomma, potrebbero scomparire, cioè un rischio forte? Come ho detto, attualmente la principale malattia viene controllata con fungicidi ad ampio spettro, d'accordo? È ovvio che il patogeno diventerà anche lui resistente a breve. Come al solito finisce così. Esatto, non avranno più effetto. Ecco, quello a cui ci dobbiamo preparare non è certo la scomparsa delle coltivazioni di banana, ma probabilmente ad un cambio nella tipologia di banana che mangiamo oggi. Magari più cattiva, questo è il problema. O comunque diversa. Potrebbe essere un rischio, indubbiamente diversa. È chiaro che a livello mondiale lo sforzo è quello di portare allo sviluppo di varietà di banano che siano di interesse ugualmente piacevoli, certo. Va bene, grazie Epifanelli, in bocca al lupo, speriamo insomma che il lavoro suo dei ricercatori possa portare davvero non a questo scenario che abbiamo dipinto catastrofico. Grazie e davvero buona ricerca. Ti ringrazio. Arrivederci. Buona serata, arrivederci. Buona serata. Ma in cortile a casa mia c'è una gattina che si chiama Chiquita, cosa le dico? Tragedia. Non le dico niente. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ci è arrivata una domanda, anzi un'intera mitragliata di domande complicata sul campo elettromagnetico e abbiamo deciso di rispondere. Oh ragazzi, io sulla fisica non ci capisco niente, dovrete essere bravissimi, dovrete, perché adesso insomma introduciamo il nostro esperto a spiegare tutto anche a me. E abbiamo in linea già Emiliano Ricci. Ciao Emiliano. Ciao a tutti, buonasera. Fisico divulgatore, noi ti tiriamo sempre dentro per rispondere a queste cose. Allora, qui c'è una lettera accorata di Roberto Cremonesi che è praticamente fatta di frasi solo con domande. Perché lui dice: che cosa diavolo è questo campo magnetico, questo campo elettrico, non mette insieme elettromagnetico, e poi dice di che cosa è fatto, nel campo magnetico non c'è passaggio di elettroni perché probabilmente lui pensa alla corrente, ma da che cosa è formato, sono onde, emissioni, particelle messe dagli urti fra elettroni, e finisce dicendo vi ringrazio per la vostra comprensione, per l'attenzione, ecco il punto in cui sono arrivato, cioè è diventato una cosa che sta sconvolgendo la sua vita. Salveremo noi. Insomma, il tema però è com'è questa storia del campo elettromagnetico, perché non si vede niente eppure c'è il campo elettromagnetico. Noi in questo momento lo stiamo utilizzando. E anzi, mi sembra che influenzi molto le nostre vite. Esatto, c'è dappertutto. Lo stiamo usando in grande quantità proprio esattamente in questo momento. Esatto. Per trasmettere, esplosa la trasmissione. Ma il campo, intanto il campo in fisica è un concetto molto, molto vasto e si può anche definire facilmente, cioè è una regione di spazio dove è definita una certa grandezza. Quindi in realtà noi possiamo avere campi di temperatura, che vuol dire che in qualunque parte dello spazio noi possiamo dare una certa temperatura. Il campo elettromagnetico è appunto la grandezza grandezza di elettricità e magnetismo che noi definiamo nello spazio, che si propagano nello spazio. Noi sappiamo che è un elemento reale perché lo possiamo misurare e trasporta energia, cioè il fatto che noi possiamo ascoltare la radio per esempio in questo momento ci garantisce il fatto che questo campo elettromagnetico si propaga nello spazio e arriva a noi nelle nostre radio e ci permette di sentire. Però fermati un attimo Emiliano, perché la misura di una temperatura in un punto di una stanza ha a che fare con le molecole che si muovono più o meno velocemente in quella stanza. Poi, per esempio, si va in giro per le strade, una radio, i tecnici di una radio a un certo momento devono vedere il perché in una certa zona c'è o non c'è questo campo elettromagnetico. Ma lì non ci sono mica gli elettroncini che vanno più o meno veloci. Ma infatti l'ascoltatore proprio dice sono onde, particelle, cosa sono? Questo è il punto. Questa è una domanda molto interessante che apre un sacco di quesiti ancora più profondi, perché nella teoria classica dell'elettromagnetismo noi sappiamo che sono delle onde, no? Le famose onde elettromagnetiche, che sono sostanzialmente la soluzione delle equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico, cioè noi sappiamo che risolvendo le equazioni di Maxwell che definiscono appunto la propagazione di questo campo elettromagnetico troviamo delle onde che viaggiano alla velocità della luce, e questa fu poi anche la scoperta interessante che dette il via a Einstein per lo sviluppo della relatività ristretta. Nei campi quantistici, probabilmente l'ascoltatore si pone il dubbio come si propagano queste onde, perché non c'è un mezzo, no? Il famoso etere che c'era una volta era sostenuto come esistente, no? Poi ci fu il famoso esperimento di Michelson e Morley, che non dimostrò che appunto la luce si propagava in tutte le direzioni in maniera equivalente senza ci fosse questo supporto, questo mezzo che la sostenesse. Però nei campi quantistici in qualche maniera una soluzione alla al quesito che è posto dall'ascoltatore c'è, perché nei campi quando si vanno a quantizzare, quindi quando si studia la teoria quantistica dei campi, i campi vengono mediati attraverso lo scambio di particelle. Quindi quello che noi in teoria classica chiamiamo onda elettromagnetica, nella teoria quantistica diventa un fotone. Quindi, per esempio, due elettroni che interagiscono fra loro attraverso il campo elettromagnetico, in realtà nella teoria quantistica dei campi interagiscono fra loro perché si scambiano dei fotoni. Quindi ci sono delle particelle che viaggiano dall'uno all'altro. Quindi qualcosa di concreto, tu dici materiale, ci sarebbe pure. Ci sarebbe pure, sì, anche se poi in qualche maniera tutto fa riferimento a sviluppi matematici e quindi a soluzioni di formule più o meno complesse. No? Ecco, allora, scusa Mignano, fermati qua perché io vedo anche Chiara che sgrana gli occhi. Secondo me, però, dimmi se sei d'accordo, tutti questi che non maneggiano, no, perché non lo fanno di lavoro, le equazioni di Max, insomma, hanno ragione a vedere una differenza, per esempio, tra il campo delle temperature e questa roba qui. Perché, diciamocela, la fisica ha tirato fuori queste cose attraverso dei calcoli. E a un certo allora c'è una matematica che rende conto di come le cose funzionano, rende conto talmente tanto che si fanno le radio come Radio 24. Esattamente. Però, esattamente, contatela giusta, in realtà qui sotto c'è un mistero, cioè abbiamo uno strumento per maneggiare queste cose, però poi la sostanza che c'è sotto è un po' misteriosa, dobbiamo dirlo a Roberto, sì, o no? Sei d'accordo? Sì, sì, sono perfettamente d'accordo, sono perfettamente, perché in qualche maniera c'è un problema sul che cosa fa di mestiere il fisico. Il fisico cerca di capire come funzionano le cose, ma il perché, l'essenza, quella che in qualche maniera, citando Galileo, si potrebbe chiamare l'essenza della cosa, è difficilissimo da trovare. Cioè, per dire, noi adesso sappiamo che la massa esiste perché esiste il bosone di Higgs e ci siamo dati questa risposta, ma in realtà non è una risposta vera e propria. Cioè, quale sia l'origine della massa non lo sappiamo. Quindi noi abbiamo dei modelli matematici che funzionano alla perfezione, però sono sempre dei modelli. Quale sia la realtà che sottende questi modelli è difficilissimo. Sì, ci sono dei fisici che provano a dedicarsi allo studio dei fondamenti della fisica, ma è un mestiere complicatissimo ai confini con l'epistemologia e a volte addirittura con la metafisica, e quindi sono ambiti molto di confine. Sì. Però il fisico risponde a come funziona. Solo che a volte maneggia, come nel caso della temperatura, delle turbolenze di molecole, quindi diciamo che si vede misurare qualcosa, tra virgolette. In altre invece sta tutto in piedi in un modo eccezionale, perché appunto si costruiscono apparecchiature, ma sta in piedi perché c'è una matematica che lo tiene in piedi. Assolutamente. Non si assolutamente sa. E non c'è nessuno però che lo sa. Ecco, non la è domanda che si faceva appunto Einstein quando uscì la meccanica quantistica, che lui era in cerca di elementi di realtà che fossero intrinseci alla teoria. In realtà questi elementi di realtà sono labilissimi, praticamente non sono misurabili, non sono percepibili. Quindi, certo, e qui si ricorda sempre, ed è giusto farlo, quella famosa frase, no, di Feynman, che è stato un grande fisico quantistico, che diceva agli studenti: guardate che se trovate qualcuno che vi dice che ha capito la meccanica quantistica, mente, sta mentendo. Assolutamente, assolutamente. Ecco. La meccanica quantistica si sa che risponde in maniera eccellente a un sacco di fenomeni, a un sacco di esperimenti, però se davvero chi si domanda quale sia poi il fondamento che sta alla base di tutto, questo ancora la risposta non c'è, probabilmente è una risposta che non compete ai fisici, probabilmente. Probabilmente siamo in conclusione, però volevo fare una domanda, riportare, abbassare un attimo il livello, fare una domanda elementare. Non ho capito bene una cosa, cioè per generare un campo magnetico, diciamo, deve esserci come condizione però necessaria il fatto che ci sia un magnete, cioè due poli, uno positivo e uno negativo, affinché le onde, le particelle, quello che abbiamo detto fino adesso, questo punto interrogativo, vada da una parte all'altra, o mi sbaglio, Emiliano? Allora, per generare un campo magnetico bisogna avere delle cariche in movimento, cariche elettriche in movimento. Quindi anche i campi magnetici, i magneti, quelli permanenti, quelli che appunto possiamo tenere appunto in mano, oppure le bussole che hanno l'ago magnetizzato, sono magnetizzate perché al loro interno il metallo di cui sono costituiti ha delle zone magnetizzate tutte orientate alla stessa maniera, quindi è come dire che gli elettroni ruotano tutti nello stesso verso, praticamente, detto in maniera molto molto semplificata, e quindi genera questo campo magnetico che, dal punto di vista classico, questo è interessante, dovrebbe sempre essere generato da un polo nord e un polo sud, cioè il polo nord e il polo sud sono sempre tutti insieme, però Dirac, per l'appunto, con la meccanica quantistica, dedusse che in realtà potevano esistere dei monopoli magnetici, e proprio di recente è stato scoperto, creati proprio in laboratorio dei sistemi fisici che si comportano come dei monopoli magnetici. Quindi anche questo sviluppo teorico ha dato in qualche maniera in laboratorio un esito interessantissimo. Ma, quindi, tornando all'esempio della radio, noi possiamo figurare il campo magnetico come la radio che trasmette, quindi lancia, come dire, le onde, e il ricevente che le riceve? No. Noi abbiamo un segnale che viene messo dagli apparati elettronici che avete lì nello studio, passa attraverso l'antenna, e l'antenna lo trasmette perché all'interno dell'antenna, del metallo dell'antenna, ci sono degli elettroni che oscillano a una certa frequenza, e quindi emettono l'onda elettromagnetica a quella frequenza, che è quella a cui ci si sintonizza. E da un'altra parte ci sarà la radio, che la mia mamma, che la riceve con l'antennina della sua radio. Certo. Ma non è come una doccia, non è un rubinetto. Molto semplificato, vi ringrazio, ma ho capito. Però sappiamo che porta energia, perché noi la riceviamo. Certo. Poi su che cosa si sostenga, niente, e questo capisco che possa mettere in crisi il nostro Roberto e non solo. Diciamo, molte parti della fisica, anche classica, ma soprattutto quella moderna, vanno contro il senso comune. Sì. La meccanica quantistica è piena di esperimenti che vanno contro il senso comune, però anche la meccanica classica, con per esempio l'elettromagnetismo e le onde che si propagano nel vuoto senza nessun mezzo di supporto, capisco che possa mettere abbastanza in crisi. Finalmente ho capito, grazie caro Emiliano davvero per voi, il supporto. Ciao Emiliano, alla prossima domanda. Ciao, alla prossima, buona serata. Buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Un giorno si butterà la rete o un amo e verrà su un robot. Dei robot, tanti. Lo sciame di robot, una bella pescata. Speriamo di no, via. No. Ecco, no, questa è l'ultima trovata, viene da dire. No, in realtà è una delle ultime tecnologie presentate dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Noi spesso parliamo di loro, soprattutto in ambito di robotica. In questo caso, l'Istituto di Biorobotica ha messo a punto uno sciame, abbiamo detto nei titoli, così per far capire, insomma, l'immagine, uno sciame di piccoli robot subacquei. Ecco, allora direi di dare intanto il benvenuto al responsabile di questo progetto, Cesare Stefanini. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Benvenuto. Ecco, lei è ricercatore presso questo istituto e chiediamo a lei, insomma, di descriverci quelli che voi chiamate Cocorò, con questo nome un po' sa di contrattino quali governi discutono. No, in realtà è un acronimo che significa Collective Cognitive Robots, è corretto? Sì. Che cosa sono? E ci dica anche come sono fatti. Ecco, sì, avete parlato di sciame, forse in acqua è più opportuno parlare di banco. Un banco di pesci. Una sorta di pesci che insieme nuotano sott'acqua. E in realtà sono dei sistemi artificiali, quindi non sono dei pesci, ma sono delle piccole macchine che possono immergersi e comunicare tra loro. Che forma hanno? Hanno delle dimensioni contenute, potremmo dire tipo un litro di dimensione come volume, e un po' allungata, somigliano a un pescioide. Quindi assomigliano un po' a un pesce, ho capito. E vanno in giro in banchi di quanti? Dunque ne abbiamo fatti 25 al momento. Okay. L'obiettivo è di alcune decine e possono comunicare tra loro. Ecco, questa quindi è un po' la particolarità. Eh sì, ne parliamo esatto. Per questo. Hanno varie modalità di comunicazione, sia con segnali luminosi, in particolare sott'acqua la luce blu penetra per distanze più elevate di altri colori di luce, col suono, quindi possono emettere suoni e ricevere suoni. Come una specie di sonar? Sì, come una specie di sonar, nel campo dell'udibile, quindi sono dei piccoli altoparlanti e microfoni subacquei con i quali possono, diciamo, parlare, e poi hanno anche degli elettrodi che emettono delle correnti elettriche in acqua molto deboli, non correnti rischiose, correnti di pochi milliampere, se non microampere, e sentono, diciamo, il contatto, la prossimità grazie a questo innovativo sistema di comunicazione. Come avere... Che è un sistema di comunicazione che utilizzano anche alcuni pesci, in effetti. Sì, sono dei pesci dell'America Latina che lo usano per muoversi in ambienti non trasparenti, esistono delle acque melmose o comunque opache che non permettono la visione e quindi ricorrono a questo senso per potersi orientare, poter riconoscere il fondale piuttosto che anche prede o predatori da poter scappare. E i tre sistemi di segnalazione servono per scopi diversi oppure per avere, come si dice, un po' di ridondanza in modo che il segnale arrivi sempre? Diciamo che coprono distanze diverse, quindi quello delle correnti elettriche che citavamo è una sorta di tatto esteso, quindi è come se il corpo fosse più grande della sua dimensione e quindi si riconosce la prossimità, si può navigare in cunicoli, ad esempio in ambienti stretti o confinati, quindi ha questa caratteristica che permette sia di comunicare che di sentire in qualche modo la prossimità di oggetti. Gli altri sistemi sono per distanze più lunghe e hanno anche qui una differenza, per cui il sistema acustico va abbastanza lontano, ma ha un basso contenuto di informazione, non posso dire tantissime cose perché è un segnale comunque limitato come quantità di informazione. Il segnale luminoso invece, che può essere modulato molto rapidamente, queste luci possono essere fatte lampeggiare in modo molto rapido, garantisce un'elevata quantità di informazioni, quindi si possono trasmettere più informazioni. Per cui diciamo sono tre sensi che coprono tre modalità diverse. D'altro canto la luce non può arrivare molto lontano, perché comunque sott'acqua c'è una estinzione dell'intensità luminosa abbastanza forte. Però dal punto di vista dei contenuti, che cosa si dicono? Quali sono le informazioni che vengono veicolate? Allora, informazioni sono informazioni di movimento, dove sto andando, di cosa percepisco intorno a me, quindi ad esempio sento che qui la concentrazione di acqua di un inquinante, ad esempio in acqua, è più forte che in un'altra posizione, quindi lo trasmetto al resto del gruppo, oppure anche informazioni di gruppo, tipo sento che siamo 5, sento che siamo 6, e quindi diciamo ogni macchina ha una coscienza individuale e poi l'insieme delle macchine è una coscienza, come si dice, collettiva, diciamo, di banco, diventa un macro organo, insomma, un macro organismo. Esatto. Ecco, è importante che siano che sappiano di essere vicini e che si muovano in qualche modo in maniera coordinata, ecco. Questo è un certo, po' il loro obiettivo. Nessuno si deve perdere. Ma nel banco di pesci tipicamente c'è un capo che poi cambia anche rapidamente, ma ci vuole sempre uno che... Un leader? Sì, diciamo. diciamo che in modo dinamico, quindi mutando i ruoli durante una missione, si possono assegnare ruoli diversi ai vari soggetti. In particolare un ruolo molto interessante è quello della cosiddetta catena di comunicazione. In altre parole, possiamo pensare che una parte del gruppo lavori interessandosi a un sito per cercare di capire cosa è presente in quel sito, e altri invece siano dislocati tra il sito di interesse e la superficie, ad esempio, a formare una sorta di catena per trasmettere le informazioni in superficie. Quindi questo è una prima suddivisione che abbiamo pensato in questo progetto. Quali sono le applicazioni? In che modo pensate, immagino, sorveglianza e monitoraggio delle acque, in che modo potete poi utilizzarli in maniera intelligente? Ma un settore molto interessante è quello dell'esplorazione. Un gruppo di robot può facilmente ispezionare, diciamo, un ambiente, quindi più che una singola macchina. E quindi, ad esempio, fare rilievi di altezze del fondale. Questi robot hanno presenti anche dei sensori di pressione abbastanza precisi, che consentono di capire se l'immersione è a una certa quanto profondità, sono giù e su, certo. Si può pensare a questo banco che si muove sul fondo e fa di fatto una scansione del fondale. Ognuno si mantiene a una distanza dal fondale e tra di loro capiscono la differenza di quota, e quindi potrebbe essere una sorta di sonar molto ecografo, molto, molto avanzato. Oppure potremmo pensare al fatto che una macchina, essendo individualmente piccola, può entrare in anfratti dove l'insieme non potrebbe entrare, e quindi si conforma anche il gruppo in base all'ambiente in cui si trova. Cioè un gruppetto potrebbe staccarsi anche e infilarsi in una tana e poi riunirsi al gruppo anche, quindi esatto, anche con cose esatto. Di questo. Quindi sofisticato, esatto. Come comportamento. Ora, in realtà quello che programmiamo al momento nel banco di robot sono comportamenti abbastanza basilari, quindi ogni robot cerca di non perdere gli altri, ha magari una direzione preferenziale di avanzamento che potrebbe essere relativa a una bussola al proprio interno, quindi dice: io vado a nord, però cerco di non perdere gli altri, e si programmano anche movimenti, per esempio circolari piuttosto che rettilinei. Quindi al momento stiamo in qualche modo riproducendo movimenti coordinati della squadra. Beh, è l'inizio della ricerca, certo. Esatto. E ci sono dei vantaggi per cui avete scelto, ad esempio, un banco di pesciolini piuttosto che un pescione grande, voglio dire un robot più grande, più sofisticato? Il vantaggio grosso è il costo. Cioè queste unità in realtà sono poco costose perché sono piccole e non richiedono materiali o processi particolarmente costosi, sono, diciamo, l'equivalente di uno smartphone che possiamo pensare dotato di eliche. Ecco, quindi davvero economici, insomma, si può pensare anche in situazioni magari un po' pericolose, versamento di materiale tossico, se ne perde qualcuno non è grave. Certo, questa ipotesi dei robot sacrificali, in effetti, in cui comunque l'informazione viene raccolta, inviata agli altri, e poi se il robot distale in qualche modo si perde, non è un grave danno. Non è un gran danno, ecco. Volevo chiedere anche questo, però so che voi robotici, quando parlate poi di ricerche di frontiera, sostenete che il grande scenario verso cui andare è dei robot che, come dire, per dirla semplicemente, se la cavino da soli e quindi imparino a interagire, no, con l'ambiente, e in questo modo si potrebbe aprire quella direzione per la quale i robot cambiano anche il loro software ed evolvono in qualche modo. Sì, diciamo, abbiamo in questo progetto, e colgo l'occasione di ricordarlo, è un progetto internazionale, quindi noi siamo uno dei partner che ci occupiamo proprio dello sviluppo dei robot. Poi ci sono altri partner, in particolare il coordinatore che si trova in Austria, a Graz, che si occupa di algoritmi genetici. Quindi in effetti la piattaforma viene programmata per evolversi. Quello che stiamo, per esempio, simulando sono comportamenti che all'inizio sono casuali e poi tutto quanto il gruppo si muove in una direzione. Certo. Quindi imparando a parlare con i vicini e a scegliere insieme un'azione. La soluzione. Certo. Perché a un certo punto è il banco che sa quello che bisogna fare e non certo i ricercatori, no? Lo sanno meglio loro. Esatto. Perché ci si trovano, insomma. Perché ci si trovano, ci lavorano tutti i giorni, allora bisogna metterli in condizione, sì, di provvedere, no, a migliorarsi. È un approccio diverso da quello ingegneristico tradizionale, in cui sì, l'approccio è logico-deduttivo, partendo da delle ipotesi e arrivando, diciamo, a una soluzione. Qui diciamo, c'è un compito abbastanza generale che si dà e poi il sistema si organizza cercando di ottimizzare, di massimizzare l'efficacia, quindi ci sono piccole regole di, anche di meccanismi di gratificazione dei robot, che quindi meccanismi di punizione o gratificazione a seconda che poi siano bravi o meno. Lo sapete come va a finire, a un certo momento diventano grandi, i ragazzi se ne vanno, cioè li perderete questi. Va bene, torneremo a parlare degli sviluppi di questi robot senz'altro. Grazie Stefanini, davvero buona ricerca. A voi. Arrivederci, grazie, buon lavoro. Buonasera, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vado in California adesso, dove incontro Sebastiano Cantalupo. Buonasera Cantalupo. Buonasera. Adesso noi ci sentiamo, ma lì da lei non è sera, però lei guarda il cielo, anzi il cielo un po' poco, guarda l'universo, è un italiano che da lì guarda l'universo. Come mai? Cosa fa lei lì in California? Dov'è? Sono un ricercatore qui, precedentemente ero in Inghilterra, ma ho fatto il mio dottorato in Svizzera e mi sono trasferito fuori dall'Italia circa 9 anni fa. 9 anni fa e adesso lì dov'è? In che quale centro di ricerca? Sono a Santa Cruz, che è vicino a San Francisco e fa parte dell'Università della California. Allora, arriviamo a lei perché, ecco, io ho qui davanti, purtroppo la radio non ha il video, come diciamo spesso, io ho qui davanti una piccola immagine azzurra, molto, anche molto nera, con delle luci forti, ma un po' di suspense si può creare se la descriviamo, così poi la gente va a vedersela sul nostro sito e mettere insieme la visione dell'immagine dopo aver ascoltato queste cose che ci diremo è abbastanza importante. Io qui ho una piccola immagine dove ci sono come due grandi lampadine e in particolare intorno ad una ci sono proprio due fari che puntano verso di noi, ecco, più come un faro di una macchina, e poi intorno a una c'è una specie di bambagia azzurrastra, molto tenue, una nuvolona ma spessa. Ecco, noi stiamo per parlare di questo. Allora, Cantalupo, senta, noi siamo abituati, ne abbiamo parlato spesso anche in trasmissione, a pensare all'universo come qualcosa che va bene, ha le sue stelle, le sue galassie, però ha tanto vuoto e poi ha questa cosa misteriosa di cui parleremo un po', che è la materia oscura. Ma il fatto è che lei ci dice invece che c'è un sacco di materia in quello che noi pensiamo sia vuoto. È questa la ricerca sulla quale lei col suo gruppo si è concentrato. È così, no? Sì, se infatti noi prendiamo una immagine classica dell'universo che possiamo prendere con i nostri telescopi più potenti, quello al quale siamo abituati è vedere un insieme di galassie o di sistemi completamente isolati. E questo perché i nostri occhi, come anche i nostri telescopi, sono abituati a vedere la luce delle stelle. In realtà però i nostri modelli ci dicono che la maggior parte della materia dell'universo non si trova all'interno delle galassie, ma si trova in realtà fuori dalle galassie. In quello che noi chiamiamo vuoto. Sì. E non è vuoto. Perché i nostri occhi non sono abituati a vedere tutta la materia, ma solo a vedere le stelle. Ma se i nostri occhi potessero vedere tutta la materia dell'universo, l'immagine che noi avremmo sarebbe molto diversa. Vedremo quello che noi chiamiamo una rete, una ragnatela di filamenti, una struttura, e in realtà vedremo che queste galassie sono collegate tra di loro da questi sono immerse in quella che io prima chiamavo questa nuvola, questa bambagia, no? C'è proprio una trama. Ecco, ma senta Cantalupo, ma la materia oscura abbiamo capito che è oscura, anche talmente tanto oscura teoricamente, magari poi ci dice qualcosa, che abbiamo capito che non si vede. Ma noi perché tutta questa materia non la vediamo? Il fatto è che noi abbiamo bisogno di questa materia perché abbiamo bisogno della influenza gravitazionale, della forza gravitazionale di questa materia per poter formare le galassie come le vediamo noi oggi. Noi astronomi siamo abituati a chiamare qualcosa oscuro quando non ne sappiamo l'origine, però sappiamo che dovrebbe essere lì e abbiamo delle prove indirette. Non abbiamo nessuna prova diretta dell'esistenza di questa materia oscura, sì. Però il nostro modello cosmologico ci dice che associato a questa materia oscura, che praticamente noi pensiamo sia l'85% della materia totale dell'universo, dovrebbe comunque esserci una parte di materia ordinaria, gas, idrogeno ed elio, che traccia più o meno queste strutture cosmiche che sono fatte principalmente da materia oscura. Ecco, allora aspetti, ho bisogno che chiarisca un po' quello che ha detto. Allora, prima lei ci ha detto che c'è appunto questa materia oscura, che quando voi fate i conti, perché galassie e stelle stiano come stanno, è indispensabile per motivi gravitazionali. Se non ci fosse, non ci sarebbe quell'attrazione, quella forza gravitazionale che tiene insieme tutto, no? Le masse che vediamo, diciamo, non sarebbero sufficienti. Però appunto lei adesso sta arrivando a della, come vogliamo chiamarla, Cantalupi, della materia ordinaria che però c'è e non vediamo. Sì, il problema di questa materia ordinaria, ecco, è che è così diffusa. È così fredda in termini astronomici che non è capace di formare stelle. Ecco. E siccome non è capace di formare stelle, non è capace di emettere luce propria. Però la maggior parte anche della materia ordinaria, noi pensiamo, si trova in questa forma diffusa associata alla materia oscura. Sì. Non si trova all'interno delle galassie. Quindi è di una densità intermedia sufficiente perché non la vediamo. Perché, mi scusi, ma noi vediamo anche delle nebulose, ce n'è una famosa che è quella del cavallo, no? Che non sono stelle, ma è materia abbastanza densa per essere vista. Questa invece non è sufficientemente densa, ma è comunque tanta. No, ma in realtà anche quelle nebulose, per esempio la nebulosa di Orione, il motivo per il quale vediamo la nebulosa è perché quella nebulosa è stata illuminata dalle stelle che si trovano all'interno di quella nebulosa. Ecco, vede. Cioè infatti, deve essere in vicinanza di stelle, se non ci sono non la vediamo. Esatto, sì. Ah, e quindi lei dice, nello spazio c'è tanto vuoto dove non ci sono stelle e quindi non vediamo questa materia qui. Esatto, e quindi non possiamo prendere un'immagine diretta. Però allora, è assolutamente diffusa, ho capito. Sì, estremamente diffusa. Densità estremamente bassa. Che... Voi avete usato un trucco geniale per vederla. Abbiamo una tecnica che ho sviluppato insieme ai miei collaboratori sin dall'inizio del mio dottorato a Zurigo. E un po' si basa su questa idea di se c'è del gas lì, se viene illuminato, come nel caso della nebulosa di Orione, dovremmo essere capaci di vederlo. Ecco. Ora, la nebulosa di Orione è nella nostra galassia, è un sistema relativamente piccolo. Come fare per illuminare invece una struttura molto più grande e su scale molto più e su scale di distanza molto più grande rispetto alle nebulose di Orione? Abbiamo bisogno di una sorgente molto più luminosa delle stelle che abbiamo nella nostra galassia. Sì. E quindi noi siamo andati a cercare una delle sorgenti più potenti dell'universo, una delle sorgenti di radiazione ultravioletta più potenti, che è un quasar. Un quasar. Che è in realtà formato da un buco nero attorno al quale c'è un disco di gas. Questo disco di gas emette luce. Questo disco di gas emette una luce estremamente intensa. E questi quasar sono miliardi di volte più luminose di una stella nella nostra galassia. E quindi possiamo, con lo stesso trucco, possiamo illuminare gas su scale milioni di volte più grandi. E allora voi cosa avete fatto? Avete puntato un focus proprio su un quasar? Sì, quello che noi siamo andati a cercare è la radiazione che viene emessa come conseguenza di illuminazione del quasar. In particolare abbiamo guardato ad una particolare frequenza. Abbiamo usato un trucco chiamato fluorescenza, che è lo stesso fenomeno che possiamo osservare, per esempio, quando si va in una discoteca e si usa una maglietta bianca che viene illuminata da queste lampade ultraviolette. Sì, c'è la luce di Wundt. Nel buio le persone si illuminano di questa luce un pochettino fosforescente. E, E questa è una luce ad una particolare frequenza. Noi abbiamo usato esattamente lo stesso trucco. Abbiamo costruito un filtro per poter selezionare esattamente questa luce fluorescente emessa dal gas in risposta alla illuminazione di questo quasar. E abbiamo messo il filtro su uno dei telescopi più grandi del mondo, che è alle Hawaii. E abbiamo preso una delle immagini più profonde che siano mai state prese con questi tipi di filtri. E siamo stati fortunati. Avete preso quell'immagine che descrivevo prima. Nella nostra prima immagine abbiamo visto questa enorme nebulosa vicino al quasar, che è almeno due volte più grande di qualsiasi altra nebula sia mai stata vista prima. Ecco, sì, lì nell'immagine sembra una cosa, una nuvoletta, in realtà ha delle dimensioni impressionanti. Praticamente voi avete stretto l'inquadratura sul quasar, avete usato questo sistema di rilevazione a una particolare frequenza e avete visto questa, appunto, chiamiamola tanto per intenderci, appunto questa nuvola. Il nero che noi vediamo intorno non è nero perché è privo di quella nebula, ma è solo perché in quella zona non c'è l'illuminazione sulla quale voi avete stretto, diciamo, il vostro obiettivo. Dobbiamo immaginare questo quasar non come una lampadina che emette in tutte le direzioni, ma come una torcia che ha una particolare, particolare angolo nel quale questa luce viene emessa. Certo. E è proprio come una torcia nella notte che illumina solo una parte della scena. Nello stesso senso il quasar sta soltanto illuminando una parte della struttura cosmica. Perfetto. Che circonda, almeno questo è quello che pensiamo. Allora io vi invito poi ad andare al nostro sito www.moebiusonline.eu e guardare questa piccola immagine e capirete allora che quando guardiamo il cielo e vediamo, magari perché siamo in montagna, tanti punti luminosi, ma vediamo tanto nero, in realtà noi vediamo quel nero perché non riusciamo a percepire, proprio in termini di ottica, di frequenza ottica, un sacco di materia che invece c'è. E se potessimo vedremmo estesa ovunque quell'immagine lì, no, Cantalupo? Questa è la cosa affascinante del lavoro che voi avete fatto. Molto bello, complimenti e buona ricerca. Grazie. E così abbiamo finito anche questa puntata. Mi raccomando, andate al nostro sito Moebius Online e vedrete la foto di questo vuoto che non c'è. Buona settimana a tutti, ci sentiamo fra 7 giorni.